Questo è un progetto che tende a ridimensionare e a chiudere il pronto soccorso. Noi chiediamo che questo progetto sia più chiaro, venga illustrato con chiarezza che cosa si intende fare, e ci opponiamo chiaramente ad ogni riduzione di servizio che non sia giustificato. In che cosa dovrebbe consistere la riorganizzazione del pronto soccorso e come vi state organizzando voi? In che cosa consiste? Ed è veramente difficile da capire, perché di volta in volta e quello che viene raccontato cambia. In assenza di un progetto chiaro, preciso, scritto, discusso con la gente, non si riesce a capire quali siano le reali intenzioni, e quindi giustamente non ci fidiamo delle parole che vengono dette. Vogliamo un progetto chiaro e preciso per poterlo esaminare ed esprimere il nostro giudizio. Sono servizi fondamentali e quindi i cittadini hanno tutto il diritto di conoscere che cosa avverrà di questi servizi, e hanno tutti il diritto di opporsi alla loro riduzione, soprattutto alla luce del fatto che sono servizi fondamentali per i cittadini. Prima della manifestazione avete raccolto 16.000 sottoscrizioni. Che risposta avete avuto dalle istituzioni? Finora nulla, nel senso che è stata sottoscritta questa petizione che chiedeva di non chiudere il pronto soccorso. Le amministrazioni sono state sorde, dicendo che non cambia nulla, ma non c'è un progetto. Dai pochi documenti che in nostro possesso, e che sono pubblici, si evince che si tratta di una chiusura e di una trasformazione in un punto di primo intervento che non è un pronto soccorso e che non ha i servizi di urgenza, e che soprattutto rischia di essere un intervento temporaneo lanciato verso il vuoto. La manifestazione di sabato come si svolgerà? Ci sarà un ritrovo davanti al comune, poi un corteo e fino all'ospedale, insomma, lungo via Termanini, un corteo aperto da uno striscione a cui possono partecipare, anzi a cui invitiamo, più cittadini possibili.